La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. È il 20 febbraio 1958, in un'Italia che si apre al nuovo, si chiude un'epoca, quella delle case chiuse, dette anche case di tolleranza, poiché lì si poteva fare quello che dalle altre parti era vietato. Quel giorno, con l'opposizione di Missini e monarchici, si conclude una battaglia durata 8 anni, promossa dalla senatrice socialista Lina Merlin, sulla scia di quanto era accaduto in Francia. Per l'Italia, con 3.000 donne e 700 case in attività, è una rivoluzione. La legge infatti regolamentava fin dall'unità questo antico mestiere, considerando i postriboli, oltre che una garanzia igienica, anche una sorta di baluardo morale che separava il mondo del vizio da quello dell'apparenza. Cavour aveva fatto scrivere una sorta di decalogo con tariffe e tempi, e le marchette, molto in voga anche adesso, erano dei dischetti di metallo che i clienti consegnavano come ricevuto di pagamento. Generazioni di italiani, come testimoniano cinema e narrativa, diventarono adulti staccando quel dischetto, e forse anche molti matrimoni furono salvati, al punto che Indro Montanelli, in un famoso pamphlet, scrisse che i tre fondamentali puntelli del paese, fede, patria e famiglia, con la chiusura delle case avrebbero ricevuto un durissimo colpo. Altri tempi, certo, al 68 mancavano 10 anni. L'obiettivo della Merlina era soprattutto quello di ridurre il flagello dello sfruttamento. Se ci sia riuscita, ancora non è chiaro. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore.